Allora l'urlo che bisognava andare alle carceri nuove, perché con gli scioperi del 43, a parte una serie di altri antifascisti che erano già in galera, però avevano preso gli operai che avevano organizzato, donne e uomini che avevano organizzato lo sciopero del 40. Allora tutti lì. Il giorno 26 o 27 io mi ero recato davanti alle nuove. Lì il portone delle carceri è stato sfondato con una retromarcia di un camion e c'era Luigi Capriolo. Luigi Capriolo, che ha fatto retromarcia, ha sfondato il portone delle carceri. Noi non ci siamo avvicinati perché era non tanta gente, erano tantissima gente. E lì c'era un clima di marasma, di confusione. Allora lì cominciavano a uscire i primi antifascisti recchiusi, che erano rinchiusi nelle carceri e tutto il resto.